Trippon, serve un po' di Windows. Ma faccia fai il mouse. Bacia Palmaus. Incontri e avvistamenti dalla strada al cyberspazio. Un programma a cura dell'OA di Milano. Nel grande edificio della Mass Neotech, all'ultimo piano, nella stanza conferenze riservata alla creme della dirigenza transcontinentale, i manager dei 27 paesi si sono riuniti per celebrare l'ultimo grande successo del loro marchio internazionale. L'atmosfera a luci soffuse prelude la proiezione dell'ultima presentazione 3D sulle strategie dell'azienda. Il sorriso del mega presidente gli solca il viso da uno zigomo all'altro. I visi dei presenti gli fanno eco senza nessuna distinzione, o quasi. È seduto in un angolo, vestito con una felpa con cappuccio, capelli in piedi, ghigno beffardo, tamburella sulla tastiera del portatile senza sosta, in evidente attesa di qualcosa di davvero interessante. Alla prima slide, la maschera vittoriosa abbandona i volti esterefatti dei mega manager. L'ologramma delle proiezioni di vendita disegna un enorme punto di domanda. Il grafico degli investimenti si flette in un teschio con le mani incrociate e la curva dei profitti compone la scritta «Riposa in pace», mentre sullo sfondo la torre di cristallo e acciaio dell'intoccabile azienda rovina in macerie sotto gli attoniti sguardi degli ex dirigenti. Poi, solo la scritta «Sorry, no bonus, you lose!» Quella presenza è un hacker! È l'una precisa di un venerdì 14 maggio e questo è Vacia Pai Mouse quando non ci credeva più nessuno. Perché tutti che dicevano, ma insomma, ma quanto tempo che non andate in onda? Perché ci abbiamo degli affezionati ascoltatori. Tantissimi. Ebbene sì, storia. Nessuno ci crederebbe, ma abbiamo un sacco di affezionati ascoltatori che ce dicono... C'è gente strana. Anche te però, insomma. Vabbè, io in famiglia ne faccio quattro. Di persone strane? Voi quante ne mettete? No, di ascoltatori fedeli. No, sono anche persone strane. I miei mi hanno rinnegato e quindi rinnegato, quindi siamo ancora quattro. Altri, niente. No, ma io so di ascoltatori di cui non faccio nomi, ma saluto caramente. Che sono mesi e mesi e mesi che chiedono, ma insomma, ma allora, ma perché, ma per come? Sì. Hanno dei disturbi, evidentemente, queste persone. No, hanno delle carenze. Vabbè, ora che ci siamo giocati tutti quanti. Esatto, hanno delle carenze. Hanno assolutamente delle carenze da trasmissione, allora, però niente, rassicuriamo tutti perché siamo di nuovo in onda, siamo in onda stasera, sappiamo anche quando andiamo in onda la prossima volta, ma non ve lo diciamo cioè domani adesso. No, ma non ve lo diciamo adesso, ve lo diciamo alla fine, così è bello lasciare un po' di dubbi, un po' di così ce lo dici anche a noi che non lo sappiamo. Questo è assolutamente una bugia di quelle bugiarde, sta crescendo il naso a dismisura. Comunque va bene, facciamo finta che sia così. Lasciamo questa organizzazione così poca, questa parentesina. Vabbè, non rubarmi le cose. Peccato, ormai è tardi. Va bene, comunque facciamo una sorta, raccontiamo di che cosa parleremo. Parliamo di un sacco di cose tanto stasera, per cui è... Allora, se qualcuno di mia conoscenza ha fatto i compiti e ha studiato, cosa su cui non so, però mi dicono che sì, ma io... Lo sguardo è terrorizzato. Lo sguardo non è molto sereno, devo dire, sì, in effetti. Più che altro vitreo. Un po' fisso nella notte, sì, un po' fisso nella notte. Comunque... Oh, ma avete visto la macchina in fiamme qua fuori? Io uscirei tutti quanti. Cioè, è la mia, naturalmente, la mia. Oh, guarda, che stranezza. Guarda, scapperei dallo studio perché, va sai... Bene. Non vorrei mica... Vabbè, dai, faccio misteri. Su, allora, stasera quindi parleremo di... Cosa parleremo? Scusa, tu cos'è che dovevi studiare? Ma si può dire, sai, perché per le lezioni, a par condicio... Cosa che dovrei? È il nome di una legge, si può dire. Ah, per decreto cui, Urbani. Di che cui poi vi racconteremo tutto. Perché tristemente Shodan, diventerà legge. Shodan sa tutto, ha studiato tutto perfettamente, per cui è proprio... Sì, è vero, sì. Sono un grande esperto. Poi parleremo di Isole nella Rete, ma non di Isole nella Rete, ma di una causa che è stata vinta da Isole della Rete. Se vi ricordate, ancora diverse trasmissioni fa, avevamo intervistato Ferri di Isole nella Rete per raccontare di questa causa intentata da Caradonna verso l'associazione. Questa causa è stata vinta dall'associazione, ci sembrava cosa buona e giusta raccontare perché, come mai, e tutto sommato capita talmente poche volte, insomma, che il buon senso riesca a vincere, perché in questo caso è proprio che, il buon senso. Quando capita ti va proprio di festeggiare. Assolutamente, insomma, direi che sì. Poi gli altri argomenti, direi che ognuno si racconta i suoi, basta, non vi faccio da sponda. Beh, poi c'è l'angolo del... C'è Ciccio che sta parlando nel nulla, perché vedo che non ha un microfono. È una specie di capezzolo che emerge dal tavolo, che veramente è un fungo che si buca dal tavolo. Ma tanto è molto erotico. Ma tanto si sente benissimo, devo dire, per cui per quel vocione. Se fosse alto 1,50 m non sarebbe un problema, il problema è che deve chinarsi a... Beh, volete sentire l'effetto sonoro che fa alzarlo? Grazie, lascialo lì dov'è. Non farlo mai più. È un gesto veramente... Ok, dicevo c'è... Ma quanto è lungo il tuo microfono adesso? Okay, stiamo scadendo veramente. Io adesso vi insomma, stasera già non c'è Odo, quindi non me la posso prendere con Odo che chiacchiera troppo. Però Odo c'è. Odo c'è, ma c'è come... c'è, ci sarà. Vabbè, vorrei dire ma che... non come presenza fisica. Detto e così quindi può non portare posso... anche sfiga, però. No, sì, Odo è vivo e lotta insieme a noi. No, questo porta malissimo. Qua ci stiamo toccando tutti, non lo vedono questo gli ascoltatori. Questo porta malissimo. Odo, giù le mani. Però siccome... metti le mani sulla tastiera, Odo. Siccome il gioco di solito è quello di chiudere il microfono a Odo, e quindi, insomma... Comunque, allora, dicevo, parleremo anche degli appuntamenti trascorsi, quelli che per noi sono stati degli appuntamenti, quindi dell'ACM Meeting, che c'è stato a Genova, e della May Day, che c'è stata a Milano. E di quella di Barcellona abbiamo deciso non ce ne può fregare nemmeno. E non sono stato a Barcellona, ero a Milano. Porca miseria. Passati, vabbè, posso solo rimandare sul sito. I futuri ce ne sono altri. Giusto. E invece poi parleremo anche del prossimo appuntamento di hacking, che è a Pola, il Transact Meeting. E Zest aveva invece una roba sulla... Zest sta masticando vergognosamente, per cui non riesce a parlare perché sta facendo... Passa la palla, Zest, palleggiato a lui la cosa. Sibila. Poi parleremo dell'altro argomento che ha infiammato le cronache in questi giorni, cioè del nuovo virus. Del Sasser, il nuovo virus. E più che altro parleremo anche... Se sparate l'album. Più che altro parleremo anche di come dei virus in generale, di come vengono visti dai media, o di come i media, diciamo... romanzino allegramente sulle questioni di sicurezza informatica e sui virus. Beh, con grande gioia vengono visti le media. Possono fare copertine gratuite sparando le peggio cose. Apocalissi o fini del mondo che vengono pronosticate ogni volta che esce un virus. Beh, insomma, al bacco dell'anno 2000 siamo sopravvissuti abbastanza bene, visto da distruggere il pianeta in due. Beh, ma il problema è che ogni volta che esce un virus nuovo devono fare titoli più grossi di quello precedente. Quindi ormai viene annunciato da San Pietro l'apocalisse, le bestie rare ogni volta che esce un nuovo virus. Insomma, parleremo un po' di questo e dell'isteria mediatica attorno alla rete e ai pericoli della rete. E poi abbiamo completato la scaletta. Ne volevi ancora? Non so, varie ed eventuali, come nelle assemblee di condominio. Se no? Vado a dormire alle 5, io adesso faccio contento, mettere le mani così. A coppa. Ah, no, varie ed eventuali c'è sempre, se no non vale. No, varie ed eventuali mi sembra assolutamente una cosa. Facciamo dopo aver stroncato tutti, facciamo uno stacchettino così poi c'è Shodan che assolutamente ci racconta tutto. Così di li più. Finisce, ho capito. Eh? Ecco. Ah, prima propongo no, pezzi creiamo, musica poi delle... e poi uccido esatto, qualcosa. Ma creiamo delle aspettative. Viamo, insomma, sì. Creiamo. Adesso se magari parte lo aspettate. Scatto. Parte. Teniopolo. Il peggio. Non parte. Il peggio. Avete visto? È talmente il peggio che... Io Sepultura! Proprio anch'io! 1, 2, 3, 4! Cioè, mica volevamo mandare una roba tutta intera e volevamo solo così dirci delle cose. Non sono riuscito a aprire il pacchetto. E siccome Shodan non ha ancora studiato, ci ha chiesto 5 minuti per ripassare. Vergogna. Allora, partiamo con Zeist. Sciagura a voi. Va bene. Ecco, che ci racconta? Cosa ci racconta? Parliamo dell'ultima grande apocalisse, tragedia, morte male che si è abbattuta sulla rete. Il tumore di pancia? Esatto. No, quello te lo travaso un po' sulla felpa dopo. Parliamo del Windows 2003? Parliamo del SAS, no, peggio. Server Edition. Madonna. Sasser Server Edition? Sasser Server Edition non è male. Ok, su CD però. appunto, i terribili virus che impestano la rete causando la morte, la distruzione, le pestilenze. Beh, è vero, le ci carestie. Sono. Sicuramente ci sono. E i computer li bloccano. Sì. Allora, in che senso li bloccano? Li bloccano. Sasser blocca i computer. Sì. Cioè non i computer bloccano sì, Sasser. No, sì, lo bloccano benissimo. Se lo prendono, resta lì e si fa tutto quello che stai per fare. L'ho preso. Non solo blocca il computer, ma molesta le minorenni che stanno usando i computer, notoriamente. E poi? Allora, Sasser non è altro che l'ultimo di una serie ormai infinita di virus o pseudovirus, che in realtà, nella maggior parte dei casi, in realtà si tratta di worm. Di vermi, di cosiddetti vermi che infestano la rete. Tra virus e vermi non se ne sa un cazzo cosa c'è in rete. Esatto. Ho detto rete, scusate. No, una brutta parola non si può dire. In realtà la cosa può essere fatta risalire al 1984. Pensate, quando il primo verme, inventato da Morris, uno studente americano di informatica, infettò una buona parte delle macchine Unix allora in rete. Fu una storia che, diciamo, fu la prima pietra miliare di quella che è la storia della pedicure dell'epidemiologia della rete, come si chiama oggi, perché fa molto trendy parlare di epidemiologia della rete. Dottor Livingstone, esatto. Suppongo. Suppose, esatto, esattamente. .com. .com, esatto, un'altra delle quelle nomenclature da New Economy. Noi prendiamo ad esempio il Sasser solo perché è l'ultimo dei vari virus che ha infestato. C'è anche la novità che hanno catturato il... Non è neanche questa una novità in realtà. Prima di tutto non è una novità perché uno non è sicuro che sia lui dalle ultime cose, anche se molto probabilmente poi in realtà è stato davvero la persona arrestata. Ma gli aspetti, diciamo, nuovi di questo virus sono che la Microsoft da un tot di tempo a questa parte ha cominciato a mettere, c'è questa bella abitudine di mettere delle taglie sulla testa di chi fa i virus. Beh, sono americani. Ma in realtà non l'ha cominciata la Microsoft, questa simpatico trendy, l'ha cominciato la SCO. Ah beh, anche loro sono simpatici invece. No, scusate, magari chi ci ascolta non sa che cos'è, ecco, la SCO. Parliamo, glielo spieghiamo. Santa Cruz Operating. Facciamo, no, dai, no, fa niente, no, non è serio. Glielo spieghiamo. Dai. Vediamo di partire dal principio. Allora, cosa sono i virus o i worm innanzitutto? Sono programmi che sfruttando alcuni bug, alcune vulnerabilità del computer, riescono a eseguire, soprattutto sui sistemi operativi Windows, anche se esistono alcuni esempi rari di worm e virus che colpiscono Unix, nel 90% dei casi si tratta di programmi che infettano sistemi Windows, appunto riescono a eseguire delle operazioni che non dovrebbero essere consentite a un programma di quel tipo. Codice arbitrario che viene eseguito da utenti maliziosi. Non che malizioso, appunto. Esattamente. Che in pratica sono programmi che riescono a riprodursi, a replicarsi e a effettuare delle operazioni alle volte anche poco spiacevoli sul computer che poco infettano. Spiacevoli? Poco nel piacevoli. Senso che la maggior parte delle volte invece sono spiacevoli. Sono veramente male. Questi sono gli svarioni perché, vabbè, sto messo male. Anche lui ha beccato il virus. Beccato il virus pure io. I litri di rum che stanno volando. Esatto. Cluster. Più o meno in realtà nel 90% dei casi i cosiddetti virus, i cosiddetti worm, non eseguono delle operazioni nocive per il computer di per sé, ma a causa della velocità con cui... Scrivo un poesie. Scrivo in latino e cose. Più che altro semplicemente quello che fanno è semplicemente riprodursi. È soltanto che lo fanno a una velocità tale per cui intasano reti, che voglio dire, intasano, cioè, i computer. L'India insegna a riprodursi in quanto tale, a volte può essere un problema. Cina, semmai. Ma anche gli indiani, guarda che sono tanti. Sì, sono un miliardo e passa. Milioni. Ma il peggio, ma come ad esempio quando introdussero i conigli in Australia per ammazzare le vipere e poi si sono trovati con i conigli che massacravano tutti i raccolti perché non avevano predatori naturali. Stessa cosa fa il virus informatico. La stessa cosa, in fondo, lui si riproduce e trovando un ambiente assolutamente consono a riprodursi, cioè migliaia di utenti con macchine Windows non protette, continua a riprodursi intasando reti e intasando sia reti aziendali sia internet. E questo, diciamo, è la noia che porta ai cosiddetti uomini. Vorrei spezzare una lancia sulla schiena degli utenti. Sulle reni, userei. Sì, ti prego, fan di quelle cose. Sulle gengive dei dirigenti Microsoft, proprio così, a due mani, perché io, per la faccenda di Sasser... Non puoi dire Microsoft, è da par condicio, perché si presentano alle elezioni. È da mo' che si presentano alle elezioni. Sì, dicevi, scusa. Dicevo che io ho dovuto fare gli straordinari per via del Sasser. Mi sono reso conto... Come tutti. Mi sono reso conto che... Ma te li hanno pagati in più, almeno? Sì, me li hanno pagati in più, sì. Sì, è vero, un mondo migliore questo. Sasser ha fatto bene. Io uso Linux, non l'ho preso, però... Il resto del mondo sì. Però l'hai dovuto togliere a tante persone. Non è stato piacevole, ma sì, mi hanno pagato. Comunque, dicevo che il problema principale che ho notato io è che tutta una serie di problemi e di bug che ci sono all'interno del sistema quando lo compri nuovo non vengono pubblicizzati, quindi i relativi virus fanno presa per il semplice fatto che c'è l'aggiornamento su internet, però nessuno degli utenti lo sa. E quindi, tranne che non seguono pedissequamente quello che è il sito della Microsoft, ossessivamente, giorno dopo giorno, o il loro amministratore di rete gli dici di fare. Ma se sei uno a casa che ha il suo PC, come fai? Il problema fondamentale è che tutti i virus o i worm, per riprodursi, devono sfruttare appunto un difetto, fondamentalmente un difetto del sistema operativo, in questo caso Windows, cioè un qualcosa, una vulnerabilità, vengono chiamate in termini tecnici, che permette appunto di eseguire del codice arbitrario, come non dovrebbe essere eseguito, anche cioè di fare delle operazioni che in realtà non potrebbero fare. E nel caso di Sasser che cosa succede? Nel caso di Sasser in particolare viene sfruttata una vulnerabilità del servizio di autenticazione di Microsoft che lascia un SASL. Il SASL. Che permette appunto di eseguire questo codice. Sasser come funziona? Funziona in una maniera abbastanza banale. Quando infetta un PC infettato da Sasser, apre in ascolto un server FTP, cioè un server di come quelli che ce ne sono tanti in internet, che permettono di scaricare. Sì, ok, stasera il mio italiano fa veramente caga. Sì, non ti preoccupare, anche negli altri giorni. Sì, grazie, come caro. Sempre. Solo che non sei in radio gli altri giorni. Esatto. Oh, lui è Zeist, Lui è Zeist. Uomo de merda. Infame incorporated. Allora, che cosa fa sto Sasser? In pratica non fa altro che aprire un server FTP in cui mette a disposizione se stesso il proprio codice alla macchina, alle nuove macchine infettate. Quando viene infettata una nuova macchina, questa nuova macchina non fa altro che eseguire questo codice, questo programma, per cui cerca le altre macchine Windows nella rete che hanno questo servizio aperto, appunto il sistema di autenticazione SASL, sfruttando questa vulnerabilità lo riescono a bypassare. Sono quelle 2000 gli XP, no? Esatto, no, e anche i 2003 server Advanced server. No, 2003 server e advanced server, tutte e due vulnerabili. Yeah. Quindi quando trovo una macchina che è vulnerabile a questo tipo di attacco non fa altro che sfruttarlo per scaricare se stesso su quella nuova macchina. Una volta scaricata questa macchina la infetta. Avevo sentito che il problema che era capitato alle Poste Italiane era stato che il Sasser, tra le altre cose, non ho capito se intasava così tanto la rete da isolare tutte le macchine oppure se dopo essere entrato in funzione isolava il computer. No, il problema non è che isola il computer, il problema è che veramente intasa la rete pesantemente. No. Nel senso, cosa fa una macchina infettata dal Sasser? Innanzitutto cerca in rete tutte le altre macchine vulnerabili, e già questa è un'operazione di scanning che intasa pesantemente la rete. Dopodiché, una volta che la trovate, le infetta tutte e scarica se stesso, quindi carica la rete di dati che vengono scaricati e scambiati fra le macchine. In questa maniera, in forma estremamente virulenta. Tra l'altro nelle mie... Insomma, direi che virulenta è appropriato. Amorevole, sì, decisamente. Di cosa dammi vuoi? Cioccolato, per favore. Ah. Ma così proprio, senza nessun tipo di non capiva la mia. Chiedi anche la carta igienica. Guarda che c'è una penna davanti, puoi anche scrivere. Non radio si usa, Vabbè. Grazie del cioccolato, Ciccio. Prego, aspetta, strafocati. Stava ripassando, sei distratto. Sì, e poverino, se non mangio cioccolato non riesce a studiare. No, è che non posso scarabocchiare gli appunti, già ci avrei stato sopra il room. Comunque dicevo che una delle caratteristiche del Sasser, tra l'altro, è che evidentemente è conscio della sua capacità di intasare le reti. Io ho letto sul sito della Symantec che impediva lo spegnimento del computer, lo shutdown e il riavvio. Sì, in realtà il Sasser fa le altre cose, eseguiva una serie di shutdown e di riavvi per i cavoli suoi, a quanto pare. Per cui infatti uno dei modi che aveva l'utente, diciamo più ignorante, di capire che aveva il Sasser è che il computer a un certo punto gli diceva: guarda, mi sto riavviando, ma... cazzi tuoi, mi sto riavviando. Ma scusate, ma Windows non lo fa già di suo, intanto di riavviarsi per cazzi suoi. Non si può dire par condicio. E no, poi, no. Comunque, sì, fra le altre cose, cominciava anche a tenere bloccato il computer. In realtà non è che ne impediva il riavvio, è che caricava così tanto il sistema di traffico di rete, quindi anche la CPU che doveva processare tutto questo traffico di rete, perché tu davi lo shutdown, ma il sistema non ti cagava, perché dava la priorità al virus che si stava riproducendo in massa. È gergo Microsoft Press, no? Non esatto, ti cagava. No, esce proprio la finestra, non ti sto cagando. Ah, così, però. Però in inglese, I'm not cagating you. I'm not shitting you, quindi ciao. In invece, realtà, sull'uomo che l'ha scritto? Ecco, sull'uomo che l'ha scritto, di cui non è che si sappia molto. Sì, sì, è un ragazzo classico, 18enne, tedesco. Un hacker cattivo, anziano, pedofilo da Marte? No, pare che fosse appena maggiorenne. È vero, afghano anche. Come, come tanti smanettoni adesso non erano tanti talebani, ragazzi. No, è vero, direttamente... adesso no, adesso ma adesso non bastano gli arabi in generale, cioè. Minchia, bisogna allargare i nemici, sennò cioè, non no so. Dai, già ci sono i miliziani di Mokhtar al-Sadr, per cui va bene. Le brigate verdi, le brigate rossonere, no, quelle verdi, sì. Le brigate verdi non sono quelli della Padania. No. Andiamo avanti. No. Scusate. Tu studia intanto, chi non la tratta. E comunque, come tanti, allora, chi fa virus ce n'è di tutti i tipi, dipendenti di aziende di antivirus, volevo dire... avevamo detto gira. Quello non devi dirlo, scusate, che poi ti aspettano fuori. Esatto. Stanno suonando il campanello. No, dal video citofono che ci sono gli uomini in nero che credo che cerchino te. Hanno una targhetta scritto Seaman, non riesco a leggere. No, vabbè, resta il fatto che scrivere virus viene considerata da molti, non dico un'arte, però una forma molto evoluta di programmazione. In cui è molto facile dimostrare abilità estremamente raffinate di programmazione, di conoscenza dei sistemi operativi nello scrivere virus. Quindi esiste nella lingua. È anche altrettanto della... facile farsi dei nemici. Abbastanza, volendo, eh. Comunque sta di fatto che chi scrive virus spesso lo fa anche come forma appunto di sfida con se stesso, di sfida intellettuale. Ultimamente c'è stato un mutamento di rotta, nel senso che il virus è stato usato anche come arma per combattere delle battaglie di tipo, diciamo, di ideali, e un esempio è stato il famoso virus che infettava le macchine Windows e andava a... a colpire il sito della SCO. Avevo letto anche che cioè, subito dopo il Sasser, che poi non vorrei dire una stupidaggine, ma credo che sia una variante di un precedente virus basato sullo stesso errore. Diciamo che, nel senso che da quello scusate, che ho capito adesso io... vorrei una cosa a chiarire sul variante di Windows eccetera. Cioè a dire che se vai su un sito qualsiasi, tipo quello di alcuni programmi di antivirus tipo FProt per dire, e vai a vedere la lista di virus, noterai che virus per Unix ne esistono, mi sembra, due o quattro, e sono relativi a un programma del 2002, quindi ormai un programma sorpassatissimo perché è passati 2 anni, eccetera, ormai è una roba più che antica in campo informatico, e quindi di fatto virus per Windows, per Unix, scusate, non ne esistono. Mentre invece, facciate far casino, mentre invece virus per Windows ce ne sono migliaia. Beh, fondamentalmente questo è dovuto al fatto che per come è realizzato i sistemi Unix, per come sono realizzati e concepiti i sistemi Unix a livello strutturale, creare dei programmi che si autoreplichino, che sfruttino bachi del sistema per autoriprodursi così, è pelo più complesso rispetto a quella, alle libertà, diciamo, di azione, del campo d'azione che ti offrono i sistemi Windows. Io volevo ritornare al concetto che dicevo prima sulla gestione degli utenti del computer, sul fatto che si sappia più o meno come funziona. Dicevo che, se non sbaglio, è una variante, cioè il sasser.d o sasser.c. Esatto. Per, come dire, se, diciamo, la mia idea da antivirus umano degli ultimi 8 mesi, esatto, quindi abbastanza giovane, sta nel l'idea che mi sono fatto io è che sostanzialmente si sa che una consistente parte dei sistemi che sono in rete non saranno mai aggiornati, seguiti o comunque, esatto, non avranno, esatto, una manutenzione degna di questo nome, perché sono affidati direttamente in mano a delle persone che non è che non siano capaci, perché se si va a botti di click per fare l'aggiornamento non hanno idea di quello che si debba fare. Esatto. E non gli viene insegnato né spiegato da nessuno. E questa irresponsabilità, secondo me, è da sottolineare, perché questi virus, queste varianti, sono delle varianti solo nei termini per cui non sono sgamabili dall'antivirus. Però sfruttano le stesse debolezze delle loro... Sì, esatto. Non scamabili nei primi giorni in cui sono, chiaro, fuori. In realtà... Cioè, diciamo, fai la variante così, sfrutti lo stesso bug, esatto, sui sistemi, esatto, che non sono ancora in aggiornati. In realtà i virus appunto sfruttano questi bug, queste vulnerabilità di sistemi operativi. Spesse volte quando i virus cominciano a diffondersi, diciamo, e a riprodursi in rete, Microsoft ha fatto uscire le patch per correggere questi bug già da tanto tempo. Questo comunque va detto, anche se nonostante la nostra antipatia per Microsoft. Ma nonostante questo esistono comunque tantissime macchine in rete non patchate, perché gli utenti appunto non sono consapevoli della necessità di tenere aggiornato il loro sistema dal punto di vista della sicurezza, per cui comunque in questa inconsapevolezza degli utenti, diciamo degli utenti, degli end user, degli utenti normali casalinghi, i virus trovano il terreno fertile in cui riprodursi. Ma anche in ufficio capita spesso. Ma anche in ufficio capita spesso, sì, esperienza personale. Non posso avere lavoro, eccetera, c'ho questo firewall, eccetera, che protegge le macchine interne della rete da eventuali attacchi esterni, bla bla bla bla. Ma bla, non bla, dagli utenti. Però cosa succede? Arriva l'utonto che a casa col suo portatilino. Comunque è ghettizzante dire l'utonto. Io capisco che è un termine tecnico. Lo so, però per fondamentalmente io prendo protezione, cioè adesso Ah, sei un mafioso. Sì, sì, sì. Don Shodan, finalmente. È una questione personale. Io mi sto a sbattere con protezione per evitare a sta persona di prendere le sfighe. È il loro bastardo. Basta che una persona con un portatile a casa si becca. Sì, sta aprendo una scatola di. Ecco, era una busta di noccioline. Allora, voi non dovevate sottolineare, dovevate alzare la voce. Ma no, ma è così che mangio anch'io. No, tu dovevi aprire le noccioline lontano dal microfono. Come cazzo fai a coprire quella voce una frana, Zeist? Non è possibile. Come può uno scoglio? Prendi tutte quante le protezioni, eccetera. Arriva uno con un portatile che a casa si becca la sfiga nucleare, ritorna sulla mia rete, dentro la rete protetta, riattacca il computer in rete e diffonde la merda. E dagli all'untore. A manetta. Veramente, dagli all'untore. E quindi, nel senso, se un giorno qualche utonto si trova un portatile con un chiodo in mezzo, giusto sull'altezza del disco fisso. Ma un intero piccone anche. Capisce perché ciò succede. Io volevo chiederti però, prima parlavi del SAS come di un worm. Che differenza c'è tra un worm e un virus? Allora, fondamentalmente, oggi come oggi, nessuna. All'origine si parlava di worm quando si definiva dei programmi che non facevano altro che sfruttare le macchine poste in rete per riprodursi e diffondersi su altre macchine. Le macchine sono i PC, computer. PC, parlavo ovviamente di computer, server o client, che siano, un qualunque computer in rete vulnerabile al suddetto worm, al suddetto verme, veniva utilizzato dal verme stesso per riprodursi e diffondersi. Mentre i virus erano programmi che eseguivano codice, appunto, che non doveva essere eseguito, e spesso eseguivano operazioni illegali o comunque spiacevoli, tra virgolette, illegali in termine informatico, in termine di sistema, non della legge. La polizia ti porta via. Esatto. E comunque eseguivano operazioni anche operazioni veramente poco piacevoli, tipo cancellare dei file. Quelli che oggi definiamo virus in realtà nel 90% sono semplici vermi. Ma questo perché è cambiata la maniera di diffusione. E comunque, esatto, e comunque in realtà oggi questa classificazione è molto sfumata, nel senso esistono questi programmi che nel 90% dei casi si riproducono con la stessa metodologia dei vermi, quindi estremamente virulenti, estremamente veloci nel modo con cui si riproducono da un computer all'altro. Alle volte eseguono operazioni non consentite, come ad esempio il Sasser. Il Sasser è un comportamento sia da verme sia da virus. Verme, in quanto si riproduce estremamente velocemente. Verme, di verme. Vile. Vermilingue. Non si intende l'utente che clicca sconsideratamente qualsiasi allegato gli arrivi per posta. No, ecco, il Sasser era insidioso in questo senso, che l'utente, solo connettendosi a internet, rischiava di beccarlo, senza che alleggiasse la posta. Sempre perché questo servizio di autenticazione era sempre attivo, è attivo. L'utente di solito non gli interessa, non si accorge di avere questo servizio aperto in ascolto. Più che altro non sa assolutamente cosa sia un servizio. Esatto, qui c'è da sottolineare il fatto. Mi è capito più volte di spiegare a gente che non, cioè il computer lo usa, ma in maniera assolutamente innocente, che esistono i servizi, tutte queste cose, quindi non. Comunque, cioè, deve fare un corso sul TCP/IP per spiegare alla gente come funziona sta cosa. Cioè, diciamo che il problema è quello. E comunque si riproduceva invece, dopo essersi riprodotto, fra l'altro, una delle cose che faceva il SAS era aprire sul computer che infettava una porta di connessione, cioè a offrire un accesso a chiunque sapesse che esisteva questa possibilità di connessione, e quindi un accesso a quella macchina a chiunque sapesse che era infettata. E questo è un comportamento tipico dei virus. Quindi aveva un comportamento misto: riprodursi velocemente come i worm, ma eseguire anche operazioni poco piacevoli come i virus, tra virgolette. Questa per avere una classifica. Mi è capitato di recente, su questa cosa, di fare una riflessione. Ho scoperto, installando un personal firewall su una macchina Windows 2000, personal che personal power. I fantastici personal firewall, però in questo caso è stato utile. Firewall. Questo caso è stato utile. Ho scoperto che una nota applicazione di un'altrettanto nota ditta che fa bigliettini per prendere gli appunti, non facciamo nomi, che ha fatto la versione equivalente per PC. Una gialla, esatto. Come gli studi radio polare. Che sono come. Cioè, solo per fare esempio del colore, no? Sì, infatti. Ecco, che solo questa comodissima applicazione per mettere delle note sul desktop, ecco, questa comodissima applicazione, una volta ogni 15-30 secondi, apre delle connessioni a porte 80 su server in giro per il mondo, facendo cose che non ho ancora capito esattamente cosa. Sì. Non so, tipo che magari ci sono delle CGI predisposte per raccogliere dei dati CGI? Che questi mandano, tipo delle interfacce quello remote. Quello di cui sta parlando in soldoni, va a raccontare ad altri cazzi tuoi. Esatto, quello per di cui sta parlando Tixo. La riflessione era, noi ci preoccupiamo tanto dei worm che aprono porte, vanno, si replicano, eccetera. Poi installiamo le peggio porcate, convinti che siano totalmente innocenti, no? Dice, guarda, ho installato i bigliettini per prendere note, guarda, ho installato il termometro, guarda, ho installato l'orologio 3D. Una questione abbastanza 3D. Intelligente, ovvero il fatto che... Che è raro, visto che è raro, effettivamente, però... dopo facciamo i conti. Per la legge dei grandi numeri. Cioè, nel senso, se è grande il numero delle sberle che ti tiro dopo. Sta di fatto che comunque... Al di là dei problemi di virus, uomo, eccetera, eccetera, c'è un'altra questione che ormai infiamma la rete da qualche anno, che è quella degli spyware, ovvero programmi assolutamente legali, come quello citato da Tixo, o altri programmi che voi comprate alle volte da aziende per fare operazioni assolutamente sentite normali questo tutti rumore i giorni. D'acqua è il room. Infatti non è acqua, ma è room, per fortuna. Cosa fanno? Questi programmi alle volte... eseguono anche delle operazioni che non sono proprio, diciamo, quelle che non vi vengono raccontate nel manuale di istruzioni. Ovvero, fondamentalmente, l'aspetto fondamentale degli spyware è il fatto che raccolgono informazioni dal vostro PC relative a voi stessi, quindi informazioni relative alle vostre preferenze, a quello che navigate, o quello che fate, o quello che, diciamo, a chi siete, e le spediscono a qualcun altro, solitamente all'azienda che ha prodotto il software. Un fiorino. Esatto. No, mi ha rubato la battuta, bastardo. lo scopo è quello che ormai è noto da tot di tempo, che è il data mining, cioè recuperare informazioni e fare ricerche di mercato sulla gente. Non vale, lui non gli è suonato la campanella quando ha detto data mining. Adesso vi seguo tutti, la campanella. Adesso vi seguo tutti, la regia... Cosa vuol dire data mining? Dico, la regia che notoriamente è bruttocaratere.org. Adesso, Dai, qua manda, ci vorrebbe Odo, va bene, manda dai, la musica. Chiudiamo. Out upon the islands on a cool summer night, but you don't got to hurry, take your time. What you need is on the menu, and you get it tonight, but you got women's on your mind. Could this be magic, or could this be love? Could this turn tragic, you know that magic often does. I see lonely ships upon the water. Better save the women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save the women and children first. I hear music on the landing and there's laughter in the air. Just could be your boat is coming in. Yeah, you're leaning back and you're foot tapping, ain't got your head right. There's a full moon out tonight, baby, let's begin. She said, could this be magic, or could this be love? Uh-oh. And I said, could this turn tragic, you know that magic often does. I see lonely ships upon the water. Better save women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save women and children first. Yeah, we. Thank you. And she says, magic, or could this be love? And I say, could this turn tragic? You know that magic often does. And I see lonely ships ships upon the water. Let us save the women and children first. Sail away with someone's daughter. Better save the women and children first. Yes, sir. Radio Popolare va a Ciappai Mouse e Olè! Odo che abbiamo nominato. Olè! Appena appena Odo. Sì, eccolo, eccolo. Ciao! Ah, ci tortura anche per telefono, ma questa volta è colpa nostra perché l'abbiamo pure chiamato. Appunto, a questo punto. Ma cosa ci racconti di bello, Odo? Tanto possiamo tirar giù un cursorino quando siamo stanchi. Sadismo negli occhi di Giuseppe. Ah, ma bene, sì. Le mancava. Ma non è giusto, adesso siete voi che controllate quanto parlo cattiva, io. No, no, ma noi in realtà ti controlliamo sempre da qui, perché c'è il mixerino, sai, c'è i cursorilli, quel simpatico giochino. No, aspetta, aspetta, noi cos'è, un pluralis maiestatis? No, no, ovvio. Ah, ovvio. Signora, signora preside. Esatto. Allora, Odi, pronti? Sì, mi è diventato silenzioso. Sì, assolutamente, turbato da questa... Odo, riprenditi! Dai Odo, facciamo così, ti racconto che è l'1.36, questa è Radio Popolare, questa è Vacia Pai Mouse, tu sei Odo, Odo pronto, sei tu. Odo, Odo, meno, meno, meno, vivi, vivi, vivi. Dai, cosa ci hai dici? Hai capito? Non lo so, posso... Come non lo sai? Non lo Come so, non lo so. Questa è la risposta sbagliata. Ah, serio, posso... veniamo a tagliare a casa. Beh, eh? A casa, ti veniamo a tagliare a casa, hai capito? No, a potrei casa. Parlarvi di un paio di argomenti, però vedete voi un quali paio. Cioè, in due secondi è già passato da non so a un paio di argomenti. Esatto, e questo è preoccupante. Ma io do parti in quarta. Una bella aggression così di corsa. Ma due argomenti penso che forse è la cosa più in tema o comunque più legata a argomenti di questi giorni, vista anche la trattazione che fa. Quali sono, poi, Odo? Eh? Quali sono? Ma sì, questo è fondamentale. Strigne. Sapere quali sono. Sto già divagando. Mi sei mancato, Odo! No, però... Voi non dovreste aver imparato che Odo non si interrompe, perché sennò non ce la capiamo più. Però mi sei mancato così tanto. No, io aspetto perché finite. E comunque non puoi dire Dio, perché si presenta alle elezioni anche lui. Vabbè, abbiamo sparato la cazzata. Vabbè, però non hai gli indipendenti, E adesso possiamo continuare. Super partes. Allora, abbiamo scoperto quali erano i due argomenti. No, perché non ti fanno parlare. Io adesso gli seguo i microfoni a tutti e lascio su solo te. Ma diciamo che potrebbe essere un argomento molto... sono due argomenti molto correlati tra di loro. Il primo è un argomento storico quantomeno legato al passato che si sta riproponendo anche ora, cioè esattamente 10 anni fa è... No, vogliamo sapere qual titolo? Come si usa nel notiziario? Vale, titolo? Però hai interrotto anche tu, non vale, lo stavo per dire. Dunque, 10 anni dopo l'Italian Crackdown. Ammazza, dall'estrema sintesi. E poi spiegheremo dopo Odo cos'è stato questo simpatico. No, ma io volevo sapere l'alternativa, perché noi scegliamo, mica che li facciamo trattare tutti e due. Certo, l'alternativa può essere il convegno che c'è a Firenze sulla privacy informatica. Io ho avuto il primo. Anch'io. Ma sì, dai, Italian Crackdown. No, se no facciamo così. No, facciamo... abbiamo votato, devi parlare abbiamo del votato, primo. Abbiamo votato, basta, parli del primo, pronti? No, prima uno, poi l'altro. No, dai. Odo, uno, vai. Vabbè, dopo accendiamo anche il secondo che mi pare giusto. Dunque, l'Italian Crackdown è stato è successo, o è iniziato, l'11 maggio del 1994... ed è stata praticamente un'azione giudiziaria nella quale... Odo, sì. Hai 5 minuti. 5 tutti e 5. No. Per cui se parti dal 94, secondo me ti seguo nel 95. No, ma giusto, il problema è che l'Italia Crackdown è cominciato nel 94, ma è finito nel 94. Se non parla del 94, di che cazzo lo facciamo parlare? Ah, no, vabbè, mi preoccupavo, perché Odo comincia quando ero piccolo e va tu, avanti. Ma se tu parli 5 minuti, li fermi l'orologio, poi li fai andare. No, certo, no, li faccio andare. 98-99. Sì, è vero. Però quello che è successo si è concentrato praticamente tra maggio e agosto del 94. In pratica, per un'azione giudiziaria fatta da un magistrato di Pesaro, è stata bloccata praticamente la rete telematica italiana dell'epoca. Una volta esistevano praticamente solo le BBS e internet, nel 94 non era così diffuso come ora. BBS? Eh? BBS? BBS e nodi, nodi di circuiti di BBS collegati. Scusa, Odo, intervengo. No, aspetta, nel bulletin board system. BBS uguale bulletin board system. Ah, siete la nota piedi pagina. Nel 94 non c'era internet, nel senso c'era, ma in Italia non si sapeva neanche cosa fosse, perché siamo la provincia del terzo mondo, quindi ovviamente internet... Beh, diciamo che lo sapevano in pochi. Nell'università. Più che saperlo in pochi, era chi aveva accesso a internet nel 94, era un mega privilegiato. L'università, fondamentalmente, e pochi E pochi altri, e pochi centri di ricerca e tutto. Le BBS, che erano le Bulletin Board System, erano dei sistemi collegati alla rete telefonica, quindi cui tu ti connettevi chiamando quel numero di telefono e pagando i scatti quel numero di telefono, che poteva essere tranquillamente extraurbano o addirittura internazionale, e alle quali, dall'altra parte, in ascolto c'era un PC con un sistema di servizi a cui tu potevi accedere per scambiare messaggi, programmi o software con la gente. Quella era l'internet dell'epoca, la comunità telematica dell'epoca, giusto per fare una parentesi. Vai, Odo. Sì, e in pratica su una comunità del genere era rimestata per una serie di sequestri, bloccato circa metà o tre quarti della comunità esistente italiana, quindi circa 30.000 naviganti e indicativamente un 300 nodi di questo genere. È stata una cosa, tra l'altro, fatta in modo tecnicamente molto sbagliato, nel senso che comunque è stata una cosa, un bubbone che neanche, probabilmente alla partenza, non sapevano che dimensioni potesse avere. Era nata perché una BBS di Pesaro aveva e commercializzava anche software pirata. E il problema è che i magistrati, mandando la guardia di finanza da questi, hanno preso l'elenco di tutta la gente che ci si collegava e hanno espanso la loro indagine, a questo punto bloccando anche gli altri ancora, gli amici degli amici, eccetera. E questo si è chiamato crackdown. Sì, è stata spiega la parte di crackdown. La parte italiana era perché era in Italia. Sì, cioè, la repressione a catena. No, proprio. Sì, la parte italiana. In Italia si è chiamata tecnicamente sfiga. Sì. Corte male, si chiamava pioggia di rane. Si chiamava Hardware 1 e Giro di vite. Sì, sì. Da quel famoso libro. Diciamo che secondo me l'aspetto fondamentale di quello che venne nel 94 fu la completa ignoranza di chi operò a livello legislativo e anche della polizia a quell'epoca. Ricordo che tu lo sai cosa stai rischiando, vero, interrompere Odo? Cosa stai rischiando da me in questo preciso momento? Ragazzi, è come la maledizione di Tutankhamon. Odo, sì, approfitta dei tempi morti per reinserirti. Sì, il problema è che purtroppo chi era stato mandato a effettuare i sequestri non era particolarmente pratico di computer e di informatica, per cui riuscivano a praticamente sequestrare, portare via tutto, blindare, eccetera, qualsiasi cosa che non c'entrasse anche nulla con quello che poteva essere il corpo del reato o i dispositivi utilizzati. Ad esempio, oltre a sequestrare il mousepad, cioè il tappetino del mouse, perché fa parte è fondamentale oggetto di prova. Sono per fare sicuri i tracciati del mouse sullo schermo. Sì, sì, infatti, oltre a quello, praticamente si riuscivano a portare via, ad esempio, anche i computer sbagliati, oppure tutti i computer che non c'entravano nulla, oppure quello di un'altra persona. Oppure le centraline telefoniche delle aziende, come capitò anche. Sì, oppure, ad esempio, hanno sigillato la camera di una persona che aveva il computer in camera. Con lui dentro per 30 giorni. Sì. No, con lui fuori che dormiva sul divano e non aveva i vestiti. È una storia tanto triste, in effetti. No, anche perché poi il problema è che non sapevano effettivamente, a seconda del comando locale, come muoversi. Il crackdown è avvenuto praticamente in tutta Italia e nell'arco di 2-3 giorni. Il problema è che ci si potrebbe riallacciare a quello che successe un anno prima in America, che fu l'operazione Sun Devil dell'FBI, per cui praticamente l'FBI fece esattamente quello che successe in Italia. Perché andava di moda, cominciò ad andare di moda l'informatica e il crimine informatico, l'FBI volle arrivare prima degli altri enti americani e fece questa operazione di crackdown in America, dimostrativa, dimostrando noi siamo avanti, arrestiamo gli hackers e i pirati informatici, facendo anche lì, come in Italia, delle vaccate termonucleari. Tant'è che l'operazione si concluse non solo con il rilascio di tutti gli arrestati, ma con fantastigliardi di dollari di danni pagati dall'FBI ai vari arrestati. Posso fare una domanda? Perché è stato così importante questo crackdown, Odo? Cioè, che cosa ha significato 10 anni fa questa cosa? E infatti, qua? Perché se ne parla oggi? Cioè, perché c'è addirittura un anniversario per cui noi diciamo, cazzo, 10 anni fa c'è stato il crackdown? Perché quella è stata una delle prime mosse, una delle prime occasioni che in cui la legge, o una legge utilizzata male, ha praticamente bloccato la libertà di espressione della gente, il modo di comunicare. Legge fatta molto male, nel senso che comunque all'epoca c'era solo la 633, mi sembra, che era uscita 1 o 2 anni prima sul discorso del software. Chi c'era alle spalle di questo crackdown qua era la BSA, cioè un consorzio di produttori di software che... Business Software Alliance, spero. Che cercavano praticamente di tutelarsi sul software. Il software pirata non circolava sulle BBS sostanzialmente e lo sapevano tutti, anche perché poi soprattutto la rete Fido era conosciuta, era nota per il fatto che evitavano e non utilizzavano, non veniva mai utilizzata per questo tipo di scopi. C'era comunque un certo rispetto da parte della legge, da parte degli operatori. Quindi, interpreto bene se dico che praticamente questa operazione di polizia, spacciata come un'operazione di polizia, quindi sì, a punizione di colpevoli di reati informatici, in realtà si è abbattuta come un asce su una comunità digitale che stava formando in quegli anni, che sulle reti che erano Fidonet trovava la sua libera espressione. Sì, non solo, da lì... È una cosa difficilissima ed era giusta. E vai, Ciccio. Non solo, praticamente, da lì poi sono nati gruppi o le reti si sono fatte molto più salde. Per intenderci, subito dopo la Sun Devil, in America è stata fondata la EFF, cioè... European Frontier Foundation. Nello stesso modo in cui in Italia, nell'anno prima, il primo gruppo di UBS... noti o ancora attivi era il gruppo fiorentino di Strano Network, che c'erano dal 92-93 grosso modo, e ad esempio tutti gli altri, Alcei, cioè praticamente una specie di parte italiana di FF, è stata fondata giusto per l'occasione, come pure ad esempio anche il Freaknet. Diciamo che insomma, sia in America come in Italia questi atti repressivi indiscriminati hanno portato a una reazione della parte della comunità della rete, che è stata quella della riorganizzazione di enti e di comunità a difesa dei diritti digitali e della comunità stessa. Quindi è iniziato tutto lì alla fine. L'autocoscienza è cominciata con le repressioni della prima metà degli anni 90, sia in America come in Italia. Minchia la Marcor. Beh, in America parliamo degli anni 80, però non degli anni 90. Anni 90? 84. 94, nell'84 c'era un'altra... Eh sì, 84, 94, 2004, cioè una bella sequenza. Eravamo un po' indietro rispetto alla scena americana noi. Sì. Ma ne stiamo parlando perché si sta prospettando un nuovo crackdown? No! Si continuano a toccare, no, però. No, voglio dire, di quale crackdown stiamo parlando? Esatto. Diciamo che ci sono dei rischi per quanto riguarda, così come è stato fatto un controllo a tappeto stupido, realizzato male, sul grande pericolo in questo periodo, cioè gli utenti internet normalmente non possono essere tacciati né di... terrorismo sostanzialmente, né di pedofilia, quanto il nuovo reato, il reato grosso è lo scambio di file, l'utilizzo di reti peer-to-peer, che sei sicuro che comunque becchi tutti. Diciamo che è corretto dire che in Italia stanno preparando il terreno con, non so, magari ipotizzo, con delle leggi che che potrebbero preparare il terreno a una nuova ondata di repressione della rete, della comunicazione in rete. Con, diciamo, non la scusa del peer-to-peer e della... E vogliamo un bel pensierone conclusivo su questa cosa. Sono cazzi? Eh sì. Accidenti, che sintesi. Sì, il fatto semplicemente che si tratta di una serie di manovre che stanno forzando, stanno riportandoci a un periodo di quel genere in cui a quel punto esiste un controllo forzato sulla rete e sull'espressione. Le leggi ce ne sono tante che stanno tirando fuori adesso, dalla EUCD piuttosto che la direttiva sui brevetti software, che il governo italiano non si sa cosa voglia fare, come ad esempio i decreti urbani, per il quale Jordan ci parlerà più. Assolutamente. E su questo simpatico pensiero salutiamo Odo. Bella Odo. Ciao Odo, ciao ciao. Grande. Allora, nell'attesa della sua venuta? No, nell'attesa del compito fondamentale. Mi hanno telefonato, devo andare a casa. Avrei un suggerimento. Se c'è qualche malsano che è davanti a un PC acceso, Google. Digitate incapace, sì, e cliccate su mi sento fortunato. Ci vediamo fra un po'. I feel lucky. Thank you. siamo scappati, eh? Siamo sempre qui, i compiti mi dicono sono stati fatti. E quindi, Shodan, di che cosa ci dovevi parlare? Cosa che dovevi parlare? Avete cercato su Google? Del tempo? Del tempo? Domani, sì. Nuvolo. Ah, così. Diminuzione delle temperature minime. No, la notizia non l'ho detta così, eh. Temperature stazionarie, guarda, ah, fidati. Sì. Ho finito da poco e sono sicura. Ah, sì, è vero, temperature stazionarie. Già. Nuvolo? Sì, un pochino. Però a Milano nuvolo, perché ovviamente altrove è la cippa. Vabbè, dai, fai il serio, su. Ok, nonostante abbia versato chili di rum sul decreto urbano che c'ho qua sopra. No, in realtà è una scusa per raccontare a tutti che è ubriaco, per cui dice, non fate conto di quello che vi dirò. Sì, mette sempre le mani avanti. Era un modo per dire, declino ogni responsabilità. Responsabilità. Sì, per non pagare, ragazzo, pensa, per non pagare pegno. Tu sai cosa devi fare? Devi pensare a Urbani, no? Quando sei una faccia di bronzo, di ghisa. Si presenta alle elezioni, non puoi dire certe cose. Ma no. Ma io parlo in merito alla legge, non è che parlo di lui. Dico, per presentare una legge del genere, no? Ci vuole. Bellissimo. Quindi tu potresti trovare ispirazione e coraggio. Il foglio, la proposta di legge, ed è firmata da Berlusconi, Urbani, Tremonti, Castelli, Gasparri e Lunardi. La crema. Quindi, cioè, se non è una legge seria questa, non lo so, cioè, cosa può essere una legge seria? Questa qua è... La Bossi-Fini era una legge seria, dai. Ma era solo Bossi-Fini, questa qua ci sono ben sei personaggi. Cosa voglio dire, manca giusto Nembo Kid e poi abbiamo fatto tutti. Qui spicca il ministro delle comunicazioni. Pensavo mancava solo Ghirbus. Sti cazzi. Vabbè, insomma, cos'è sta roba? No, la legge Urbani è una legge abbastanza divertente. Decreto legge, tra l'altro. Allora, adesso è come decreto, effettivamente, quindi è effettivo come decreto. Temo, è abbastanza probabile che verrà approvata come legge, quindi con tutto quanto l'iter che ne consegue, eccetera, eccetera, quindi verrà confermata come legge dello Stato. E allora, cos'è? È stata approvata questo decreto, ovviamente, all'inizio, e poi appunto, eccetera, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera. Questa parte è abbastanza divertente, più che altro. Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia di beni e attività culturali, cioè questa mi fa abbastanza ridere, è stato approvato questo decreto legge, che si divide fondamentalmente in due parti. Allora, la prima parte è quella che riguarda, che deve preoccupare più che altro gli utenti della rete, soprattutto gli utenti di programmi di scambio di file peer-to-peer, tipo i Mule, i Donkey, tutti i vari cloni di Napster, Lobster, sì, Lobster, Gnopster, ciao Gnop. Che pessima. Cos'è quell'altro che la gente usa? WinMX, queste cose qua, tutti quanti i programmi di share. In verità anche altri modi di condividere file, diciamo il generico peer-to-peer, come viene chiamato dai media, da sì, pari a pari, che è una legge che rende particolarmente illegale lo scambio di file o comunque programmi o in genere in qualsiasi forma opere aspetta, allora com'è che le chiamano? Opere cinematografiche o assimilate, protette dal diritto d'autore o parte di esse. Praticamente cosa vuol dire? Questa è la prima parte. Vuol dire che se io per esempio scambio con una persona su CD o con un peer-to-peer, che è la cosa più facile, perché normalmente cosa succede? Io mi scarico il mio filmettino che voglio scaricare perché voglio vedere il mio film, magari anche un film vecchio, perché capita che film vecchi vengano comunque inclusi in questo... Beh, ti sfido a trovare un DVD di Truffaut facilmente, per esempio. Quelli magari no. Mentre i DVD 29 sono... Sì, ma c'è anche tipo Voyage sur la Lune che sono... Ah, però per esempio personalmente, cioè, ho ricevuto... Il mio provider ha ricevuto una mail perché stavo scaricando Fight Club, che è un film di però qualche anno fa, ciononostante i vari produttori, eccetera... Ah, sei stato causa di diatriba per il tuo provider. Porca miseria. Una figura deficiente. Poi per un film del cazzo, alla fine, scusate, ma... Ma c'è Brad Pitt! Appunto. Anyway. Dicevo, comunque, la prima parte di questa legge qua è una parte fondamentalmente repressiva, che fa diventare particolarmente illegale, non che prima non lo fosse, però... per le opere cinematografiche, quindi solo cinematografiche, quindi non per i programmi, non per la musica, non per opere letterarie, non mi vengono in mente altre opere di ingegno che possono... Qualsiasi dato che non sia un'opera cinematografica. Qualsiasi dato che non sia un'opera cinematografica... Rimane illegale come prima scambiarlo. È comunque illegale come prima, però prima erano solo sanzioni pecuniarie. Adesso invece è una sanzione veramente pesantissima. Solo per la parte cinematografica o per tutte? Solo per la parte cinematografica. Io sapevo che la società degli editori si era lamentata fortemente, per cui pretendevano che questo tipo di sanzioni fossero allargate. Fosse estesa anche le altre cose. Effettivamente è vero, perché effettivamente è abbastanza ridicolo il fatto che per solo opere cinematografiche, leggevo su alcuni siti che vengono punite come scaricare o scambiare file, ma anche per uso personale, scusate, non solo per commissioni pubbliche, soprattutto per uso personale, per uso personale, non parliamo neanche del non che lo rivendo, cioè lo, ci faccio ci lo rivendo, ma per uso personale, nel senso che mi scarico il film perché lo voglio vedere e me lo guardo, invece che andare dai vari noleggiatori, il noleggiatore, perché alla fine in Italia ce n'è uno solo grosso. Che? Basta, dai, dai, possiamo anche non dirlo. Lo sappiamo, poi soprattutto sappiamo anche di chi è questo qua, questo noleggiatore. Non dovevamo parlare di una legge? Sì. Riusciamo a farcela? No, ma è tutto quanto correlato, perché purtroppo vabbè, siamo in Italia, quindi è tutto correlato. Sì, però io credo che sarebbe una cosa interessante capire che tendenza ha poi. Cioè, no. Cosa si dove, vuole okay. Dove si vuole andare allora, con questa fondamentalmente, cosa? Come ha anche ammesso l'onorevole Carlucci in un'intervista radiofonica, mi sembra che si trovi la mia... Quale delle molte? Perché è una famiglia Gabriella, numerosa. Ah, la signorina Gabriella signora. Gabriella Carlucci. Onorevole. Scusate, non mi permetterei mai. Molto onorevole. Molto onorevole. Come ha ammesso l'onorevole Gabriella Carlucci in una trasmissione radiofonica, di cui si trova anche il file audio MP3, chissà se questo è punito, vabbè, MP3 da qualche parte in... C'è un nome qualche ricerca, in internet, credo su Punto Informatico, mi sembra di ricordare, in cui ammette che questa legge qua è stata fortemente voluta dai produttori cinematografici, solo i produttori cinematografici. Questa legge qua fondamentalmente fa due cose. Allora, la prima è quella di aumentare la repressione penale e civile per questo genere di reati. Quindi si parla di, leggendo, di sanzioni amministrative pecuniarie di euro 1.500, nonché la confisca degli strumenti e del materiale, e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano, bla bla bla. Spontaneamente. Sì, un po' di infamazione nazionale, però vabbè, alla fine, anche se comparisse il mio nome su un giornale quotidiano, a parte i miei parenti e le poche persone che mi conoscono, poche, vabbè, le persone che mi conoscono, che comunque se la riderebbero un casino a vedere il mio nome scritto lì, molto non cambierebbe. Come trasformare un privato utente di internet in un eroe, in realtà. Sì, alla fine me, sì. Oggigiorno puntano sì, verso quella direzione, sì, inconsciamente. Cioè, questa è una pubblicazione, è una buffonata. Comunque, 1.500 euro di multa è una mazzata. E in verità sembra che siano previsti anche anni di reclusione. Tant'è che su alcuni siti trovi, detto, molto documentata la cosa, che lo scambio, quindi la condivisione di filmati, eccetera, in Italia è punito come la violenza personale. Quindi, cioè, tipo, non so, se io pestassi Tixo, per quanto, uno so, a caso, per quanto se lo meriti, comunque finirei in prigione per N tempo, pagherei multe, bla bla bla bla bla bla. Se scarichi... Come se avessi scambiato un film, che è veramente ridicolo. Cioè, nel senso, se lo pesto, comunque gli faccio del male, lo mando all'ospedale, eccetera. Cioè... Ma quando esce dall'ospedale non sai cosa ti fa. Mi spara, giustamente mi spara, però vabbè. Indipendentemente da lì è come se avesse scaricato lui due film, però a questo punto infatti indipendentemente dalle ritorsioni che poi subirei da questa cosa qui, cioè come se io veramente pestassi qualcuno a sangue, che comunque come reato è grave, no, pestare qualcuno a sangue. La stessa cosa per la legge italiana adesso è scambiare un film. Ma questa dicevi che però è solo la prima delle due parti, questa che è la prima, poi quella parte più pubblicizzata, nel senso che io sento parlare di leggi urbani con, cioè, un sacco di legami al fatto che era diventato penale, si va in prigione, esatto. Vengono gli sbirri, è una delle cose sorprendenti è che non ci sia distinzione di quantità, cioè scaricare un film o scaricarne 50 10.000, sì, è la stessa cosa alla fine. Sì, sì, infatti è ridicolo. In più comunque la parte repressiva, che è la prima parte, prevede cose veramente allucinanti, tipo che se il tuo provider, quindi colui che ti fornisce la connettività, in qualche maniera ti sgama che stai cioè scopre che tu stai, quello mi è successo a te praticamente, quello che è successo a me, però nel senso, se il tuo provider comunque, scusa, ti sgama che stai condividendo file o che stai scaricando, perché comunque è vietato, è molto illegale sia lo scaricare che il condividere. Se io dicevo, il tuo provider scopre in qualche modo, non si capisce come, credo anche violando pesantemente la tua privacy, perché comunque il tuo provider non ha ribadisco, non ha il diritto di guardare quello che tu stai facendo con la rete. C'è una legge che tutela la tua privacy, credo. Sì, sì, sì, io quello che scarico in rete, cioè posso anche scaricare le peggio schifezze. Finché non violi la legge, praticamente. Finché, o meglio, finché non ti sgamano in qualche maniera. Anche ma come fanno a sapere che tu violi la legge? Allora, i casi sono due. Allora, o loro si mettono a monitorare, monitorizzare tutto. Tutto quello che passa dal mio cavo di rete. E che reato. Che è particolarmente reato, perché comunque le comunicazioni private sono protette. Dunque questa legge impone ai provider di commettere un reato monitorando i propri clienti. Non impone. No, alla fine no, perché comunque se leggi bene il decreto ci sono tutti gli sgamettini, cose in cui ti dicono... Dice no. Che se per caso loro ti sgamano, cioè voglio dire, io potrei mettere una roba, scusa ti interrompo, prego. Una roba che dice... Le connessioni che riguardano la condivisione, voglio dire, ogni roba che fai su internet è tracciabile perché sono computer che si parlano, quindi sono numeri che si scambiano. Se io guardo una pagina, chiamo un numero, per così dire. Se io condivido un file, chiamo altrettanto un numero differente che è sempre lo stesso. Se io come provider dico se c'è una comunicazione su quel numero, segnalamela, non sono stato a guardare quello che hai scaricato. Non sono stato a guardare i tuoi dati di scambio, da dove l'hai preso. No, credo che debbano guardare i dati, perché altrimenti non potrebbero sapere che scambio un video piuttosto che un manuale. Sì, questo è giusto, però credo che la legge non sia così, poi adesso Shodan ce lo dice, non sia così dettagliata, nel senso, la legge dice, se in qualche maniera il provider, che comunque tra le funzioni ha quelle di registrare una serie di cose per poi eventualmente, cioè di comunicazioni che fai per poi eventualmente girarle ad altri. Se il provider ti sgama, in quel momento il provider ha, immagino, il dovere di avvisare le autorità. Il provider non può comunque stare ad ascoltare, cioè allora non può per due motivi in verità stare ad ascoltare e registrare tutto legge il traffico. Legge 675. Tutto il traffico che fai, in verità per due motivi molto semplici. Uno per un motivo legale, perché comunque non è assolutamente etico per il provider, non è assolutamente legale. 675, legge sulla privacy, non è legale per il provider registrare in qualche maniera il traffico che tu fai. Cioè il provider di solito registra quando ti colleghi, che indirizzo IP ti viene assegnato, per quanto tempo ti viene assegnato, eccetera eccetera, ma non il traffico che viene eseguito. No, ovviamente se io mi collego al sito web di qualche quotidiano, mi collego al sito web di qualche sito pedofilo per fare una roba estrema, o al sito web di Al-Qaeda se esiste, il provider non può farlo, oppure se mi collego a qualche peer-to-peer. Non può, sia per motivi legali, e in verità, sinceramente, non può neanche sia per motivi tecnici, perché dovrebbe immagazzinare una quantità di dati veramente eccessiva, che gli viene a costare di più. Perché comunque, alla fine, lo spazio su disco occupato dei log non glielo paga la polizia, non glielo paga la magistratura. Spazio su disco occupato dei log significa che i registri di queste comunicazioni vengono salvati su computer. Nel senso, se mi mettessi nell'ottica di un imprenditore che fa da provider, eccetera, io non spenderei soldi per fare questa cosa. No, ma cosa. Poi sinceramente non ho fatto due conti per avere una misura spannometrica, ma non è neanche una questione di risorse economiche, è una questione di possibilità fisiche, perché non credo che esista la possibilità di creare aree di stoccaggio di informazioni per tenere il traffico di una giornata ogni giorno per non so quanto periodo di tempo. Magari per un provider piccolo sì, per un provider grosso come quelli grossi, tipo Tiscali, ma i provider grossi sono grossi perché hanno tanti utenti. Questo non mi consola, perché esiste la possibilità di farlo saltuariamente comunque. Sì, potresti farlo a campione, eccetera, ma è veramente ridicolo. Nel senso, non credo che i provider si prendano la briga di stare a fare questo controllo. Sarebbe veramente stupido. Non è più importante sottolineare il fatto che sia illegale per loro farlo. Sì, sì, assolutamente illegale per loro farlo. Posso far notare una cosa? Cioè, questa è solo un eventuale effetto collaterale. La legge comunque non specifica un cazzo. Scusatemi. No, anzi, infatti, addirittura c'è il francesismo. Addirittura se leggi il decreto legge, eccetera, il disegno di legge, addirittura dice che i provider non devono assolutamente violare la privacy, bla bla bla. Appunto. Quindi appunto questa cosa c'è aria fritta. È solo una delle contraddizioni, però... Fondamentalmente un modo molto semplice per cui il provider sa che stai violando la legge è se io sto sharando un file, un programma, capita, come è successo a me, che arrivi la mail dalla Paramount, per dirne una, no? Cioè, sei famoso, cioè un'entità extra italiana? Sì, un qualsiasi... esiste anche la Paramount Italia, comunque. Comunque, un qualsiasi produttore cinematografico che manda al mio provider la mail in cui dice, guarda, la persona I nostri X investigatori privati hanno scoperto che l'indirizzo di rete al giorno magari X loro ora Y delle condivisioni finte. Stava condividendo questo file, eccetera. Possono farlo? Beh, sì. Sì, poi all'estero. Non è adescamento, quello sia illegale. Ma guarda che qua... all'estero penso che facciano un po' che cazzo che vogliono. Scusate, qui però dalla legge urbana. Anche nel territorio italiano. Sì, ma Daniele, stiamo qui dalla legge urbana ci spostiamo sul diritto internazionale. Cioè, la legge è fatta così. Tu hai una scena del delitto che è fisica e in base a dov'è la scena del delitto si applica la legge relativa. Comunque effettivamente stiamo, in realtà, così, divagando così, stiamo effettivamente facendo quello che è lo scopo della legge urbana. Esatto. Perché spiego, allora, aumenta la repressione, aumenta solo per le opere cinematografiche, ma in verità lo scopo della legge urbani non è aumentare la repressione, far arrestare la gente, anche perché la polizia non ha le forze per arrestare tutti quanti. Sono migliaia le persone che condividono file. Ma sì, ma questa cosa va detta, ormai è un fenomeno di massa. Sì, sì, sì, è ridicolo. Stanno cercando di mettere delle toppe come gli riesce, ma in realtà... È come se la polizia pretendesse di multare tutti quelli che superano i limiti di velocità, quindi, in auto. Quindi qual è? Non ce la fanno, non è possibile. Io sapevo ci fossero state forti pressioni da parte dell'MPA nei confronti del governo italiano. Motion Picture Association of America. Ok, MPA. Sì, effettivamente come dice l'onorevole Carlucci ci sono state pressioni dai produttori. Dunque da entità commerciali private extra italiane. Beh sì, come ci sono state... Ma è già successo per le .com, quando c'era qualcosa.com in Italia e anche in America. Erano le ditte americane che si lamentavano perché gli italiani avevano preso il punto. Ma in questo caso credo che ci siano state delle ditte private extra italiane. No, in verità c'è stata una ditta italiana che ha spinto fondamentalmente per la cosa. Si occupano di monitorare direttamente l'operato di un utente e di comunicarlo al provider. In verità, come abbiamo anche detto l'onorevole Carlucci, che comunque è deputata della destra, non c'è di storie. Alla fine è una ditta italiana che ha spinto per questa cosa ed è della Medusa, che sappiamo benissimo tutti quanti di chi è. Perché effettivamente la seconda parte della legge, che è quella veramente importante, che non è quella che è quella la che depressione. Fa... È l'altra. Sì, qual è? Quella della depressione è quella che fa scalpore, quella che ne parla Libero, ne parla nei vari giornali. In realtà è una copertura per la seconda parte. Perché comunque la gente è tutta contenta che ci sono i terroristi che scaricano i file. E la seconda parte? La seconda parte è quella che fa in maniera che vengano stanziati finanziamenti, ma sì, finanziamenti veramente grossi, nell'ordine di... un attimo che cerco, ma comunque una roba tipo 160 milioni di euro, mi sembra di ricordare, in favore di ditte che producono film... O comunque di, in particolare, 100... A quale titolo? Ah, per questo ne parlavano come di una legge salva cinema. 130 film che sono considerati patrimonio nazionale o qualcosa di simile. E a quale titolo? Per le perdite che subiscono per lo scemo. Aspetta. Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti in materia di beni e attività culturali. Hanno già perso un sacco di soldi e quindi va dato l'incentivo e in più bloccati. Sono distratti tutti, ma è colpa mia. Scusate, ti stavo chiedendo se volevi uno stacco. Giuseppina sforbiciava l'aria. Boh, sì, perché no? Stacco. 22:18, Radio Popolare va a Ciapai Mouse, riprendiamo quindi. Siete allora, un po' disciplinati, stasera. L'ubriacatore molesta. Sì, credo sia tutto l'alcol che scorre. Che avete bevuto. Perché tu sei diventata malata e quindi non bevi alcol. Io sono nel mio periodo salutista. Che noia. Scusa, posso farti una domanda? Cosa stavi facendo 5 minuti fa? Sto fumando. Vabbè, ecco. E quindi muori. Ma non farmi del male fino in fondo, insomma. Meglio l'alcol che il fumo, scusami. Anche no. Ah, che interessante dietro. Torniamo alla legge urbana. Questo e molto altro nel decreto urbani. Esatto. Certo, perché c'è anche una repressione verso chi share file sotto alcol. Quindi... sì, che sono delle aggravanti, no? E stavo dicendo, scusate. Eravamo sulla seconda parte. Sì, sulla seconda parte, quella veramente interessante. Praticamente stavo dicendo che sono stati riconosciuti 300 film in verità di interesse culturale nazionale. Ah, no, ne sono stati ammessi 247, scusate, non 300, ne sono stati proposti 300, ammessi 247. Fondamentalmente questi 247 film di interesse culturale nazionale riceveranno un finanziamento totale, mi sembra, pari a 900 miliardi di vecchie lire. Tutte queste cose qua, tutte queste cose che sto dicendo, si trovano comunque sul sito urbani.plugs.it. Perfetto. Giusto per dire. Intanto c'è un altro sito correlato che è contrario alla legge Urbani, però vabbè, non si può nominare in questo momento perché... Diciamo che ci sono alcune forze politiche, una in particolare che ha, è un esponente di una forza politica particolare. Il sito è il nome di una persona che in questo esatto, momento mi che però in questo momento è candidato, quindi e abbiamo problemi di par condicio. Non si può pronunciare, bla bla bla. Abbiamo problemi di par condicio. Comunque se andrete su questo sito qua, nomenurbani.plugs.it, troverete il link a questo sito. Ricostruite tutta la questione. In verità c'è molta documentazione anche su Punto Informatico, su molti altri siti, quindi se su questo sito qua, nella parte links o contatti, eccetera, c'è comunque un'ampia parte di altri articoli che parlano di questa legge e raccontano come funziona, eccetera. Ricordiamo appunto che tra l'altro non è ancora operativa, cioè nel senso che ancora se ne sta discutendo. No, assolutamente, il decreto in verità adesso è attivo, perché certo, ovviamente... il decreto come tale è attivo. Come però... dicevo prima, ritenuto la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti, bla bla bla, il decreto è stato approvato, perché vabbè, Ciampi l'ha firmato, quindi il decreto è attivo per i 6 mesi ed è stato, mi sembra... approvato, non trovo la data, comunque sarà attiva ancora per 1 o 2 mesi e plausibilmente verrà approvata la legge a breve in Parlamento e alla Camera, eccetera eccetera, nonostante appunto questa forza politica stia tentando di sparare 9 miliardi di emendamenti, però beh, non credo che comunque la fiducia è poca. Dicevo, la parte veramente grave della cosa, più che la parte importante, è quella appunto di questi finanziamenti, che vabbè, al solito, non so proprio come dirlo, cioè evidenzia con parole tue il solito malcostume italiano di far legge apposta per gli interessi di poche persone. In realtà la parte che mi interessava quando me la spiegavi tu era che mi dicevi, secondo me hanno mascherato questa seconda parte di finanziamenti con una prima parte repressiva, che è quella che poi ha avuto risalto sui giornali. Sì, sì, sì, perché appunto la parte repressiva è quella che sembra quella importante, perché alla fine... Ma in realtà poi bisogna seguire dove vanno i soldi, dagli perché è quello che conta davvero. Sì, sì, perché la parte repressiva è dagli ai teppisti, nel senso, non credo che i vari giornalucoli, giornali tipo Libero e compagnia, o comunque anche giornali più mainstream, tipo il Corriere e compagnia, non... parleranno molto della parte dei finanziamenti, che comunque i finanziamenti vengono considerati come una cosa standard, cioè normale che vengano dati i finanziamenti al cinema. Parleranno di come il governo si sta impegnando a colpire i cattivissimi personaggi che con internet condividono i file e fanno perdere proventi all'industria cinematografica, che alla fine è veramente ridicola, perché non lo so, personalmente se ci penso, il danno che possono arrecare tutti i vari... Ma sì, dai, si sa che è esiguo. Con tutta la buona volontà non si può paragonare certo una scena cinematografica al mio PC di casa adesso, anche sforzandomi. Cioè, con tutta una buona volontà, non, però non insomma ci credo, capito? Io no, no, infatti io che sì, venitemi a prendere, sono uno di quelli che si scarica e si vede i film, cioè io vi dico che per quanto mi riguarda casomai cerco di spendere bene i miei soldi, visto che costa un cifro andare al cinema, e cerco di vedermi prima i film che poi vado a vedere in un ambiente dove li posso vedere e sentire bene, però cioè devo scegliere con tutti gli effetti eccetera, certo. Ma questa inoltre è una comunque culturale, c'è da dire questa cosa divertente, che sempre parlando della parte di repressione, quindi andando per la sola, perché alla fine la parte importante, quindi dove vanno a finire i soldi, è abbastanza semplice: i soldi vengono stanziati, sono tanti miliardi. La lista è pubblica o sarà pubblica oppure è tenuta? Io non l'ho trovata in verità, non ho cercato neanche tanto approfonditamente, però non so, teoricamente pubblica, secondo me è difficile da reperire. La cosa divertente è che prevedendo che gli utenti useranno il materiale per condividere file o comunque per scaricare opere illegalmente, eccetera, eccetera, eccetera, vengono applicate tasse abbastanza pesanti sull'hardware. Quindi se io mi compro un disco fisso per installarmi i miei programmi, per installarmi gli affari miei, magari non devo condividere cose, cioè... Io lavoro con qualche programma di CAD o qualcosa di simile, quindi genero file grossi, montaggio video, eccetera. Io su questo disco fisso ci pagherei sopra delle tasse, anche abbastanza importanti, come entità, per andare a finanziare questi enti, la SIAE in primis e altri di questi qua. I CD vergini, ai tempi, le cassette, le musicassette. Quindi in sostanza tutti quelli che sono eccetera. Apparati di registrazione, digitali e non, sono soggetti a un aumento, perché viene previsto il fatto che possono essere usati per sì. contenere dati che non dovrebbero contenere. Sì, sì, sì. Quindi a priori dovrebbe darti la possibilità di non essere più accusabile di un reato, visto che hai già pagato una tassa. E in verità no, perché... È una specie di condono. In verità no, è un condono che tu paghi, ma poi se ti sgamano hai un problema. Non è un condono alla fine. Non è un condono, cioè è una tassa messa... È una premulta. È un baltello. Sì, è una premulta. Sì, messa con questa scusa. Cioè, è una premulta, però se lo fai poi ti arriva anche la bastonata. Sì, sì, infatti, ma la cosa divertente, per modo di dire... Tra virgolette, è che l'onorevole Gabriella Carlucci... Non so se posso dirlo, perché magari si presenta anche lei qualche lezione. No, è brutto dirlo. Recente. Ma è brutto. Sì, perché pensando alla soubrette. Vabbè. È che la signorina in questione ha proposto anche non solo di tassare gli schifissi, lettori CD, lettori DVD, CD vergini, DVD vergini. Cosa che è già. Forse anche le chiavette USB, perché floppy. Tanto già che ci siamo, vabbè, i floppy ormai ne li usa poca gente. Vabbè, altri, qualsiasi media di... non ci sta sopra un film. Qualsiasi, comunque, media. Media, in latino. Di immagazzinamento dati, quindi immagino anche le cassette che le ditte usano per fare i backup alla fine. Mm-hmm. I backup, quindi, è una cosa veramente ridicola. Ma anche la connessione internet, quindi ha proposto di fare sì che ogni connessione internet, quindi la DSL che avete a casa... La connessione col modemino 56k a Fastweb o quel che l'è, sono milanese, si sente che avete a casa, di tassare anche questa, perché ovviamente questa cosa qua sicuramente verrà usata per condividere file eccetera eccetera. Ovviamente la tassa è ufficialmente richiesta, imposta ai provider, quindi a chi vi fornisce il collegamento, però ve la fa pagare, che ovviamente la rigira sull'utente finale. Vabbè, quindi abbiamo descritto questa simpatica situazione di pre-tasse, pre-balzelli, sapendo che tutti quanti siamo dei criminali che sharano musica. A questo punto uno si domanda, però oramai questa cosa della condivisione è un fenomeno di massa, soprattutto sì. La banda larga, voglio dire, i governi la spingono addirittura come... elemento di progresso culturale, le famose tre I del nostro Presidente del Consiglio. Benissimo, allora a questo punto uno si domanda, va bene, ma al di là di tutta questa repressione, lo Stato, gli enti preposti, gli organismi, la SIAE, che fanno invece per rendere questa cosa legale, quindi accettabile da un punto di vista del costume pubblico? Aumentano il costo dei CD, così. No, attenzione, fanno la loro proposta, finalmente io ci tenevo a vederla, sinceramente, fanno questa proposta di vendita online di musica. una proposta nuova, originale. Ecco, attenzione, io ho visto di recente, posso fare i nomi del... visto su un sito di un portale noto, un grosso portale italiano. Sì, non si candida. Non si candida il portale. No, non lo so, perché fra un po'. Si candida o non si candida, lo dico o lo dico? Lo dico. Allora, il portale è Cataweb. Si candida, ma sei probabilmente... fuori, che miseria. Guarda, no, ci ha rovinato. Il gruppo indipendente, cioè Forza, no. Forza Cataweb? Sì. No. Sì, sì. Alleanza... no, comunque... no, Cataweb Democratici. Comunque, su questo portale c'è un'iniziativa in collaborazione con un grosso distributore, si candida distributore di musica in Italia... lo dico, messaggeri musicali. Si candida davvero. Sai di chi è? Vabbè, comunque c'è questa collaborazione per vendere musica online. Allora, io ho preso un CD a caso e ho guardato il costo dei brani. I brani costano a seconda della durata, costano tutti 0,99. Cioè, un tanto al chilo. Quindi sono, quindi 0,99 sono tutti, cosa? Euro, ah, 99 okay. centesimi, durano tutti lo stesso uguale. Proprio per, no, adesso, da di là delle sciocchezze, costano tutti uguali i brani. Ora, prende un CD da 12 pezzi, voi fate il conto di quanto vengono a 99 centesimi arrotondate pure a un euro, sono 12 euro. Euri. Bene. Quanto costa il CD originale a prenderlo? 12. 15? 16? Ma non anche lo 20 so. Alle volte. Sì. Ma anche, ma diciamo pure 20, però 12 è ben più che la metà. A sì. questo punto tu hai degli MP3 scaricati che, allora, A, non sono della stessa qualità del CD. B, non sono su un supporto trasportabile, quindi se te li vuoi masterizzare o portare in giro, devi spendere degli altri soldi per il supporto e pagare la tassa di qui sopra. Scusate, nonostante tu li abbia comprati. Mi fanno notare una presenza di cui non farò nome, che però è in studio a legge da un po', mi fa notare che costano ben più di 20. Ben più di 20? Quindi in realtà c'è un vantaggio... È un'offerta speciale. 28? Però. Magari quelli con tanti... I brani costano anche 40. Anche 40 euro? Una rapina mano armata. Ma uno c'è, cosa deve fare? Lavorare 24 ore al giorno per prendersi un CD al mese? Perché con gli affitti e il cibo e quant'altro, ho capito, di quelli di qui sopra che si candidano. Credo che la Spagna abbia. Allora, il concetto è che la proposta che c'è non è tale per cui uno dice, beh, però in effetti spendo 2 lire e evito l'illegalità. La situazione è tale per cui in realtà, secondo me questa cosa va detta, il fenomeno dell'utilizzo della rete per scambiare informazioni multimediali non viene affatto spinto, ma ti viene semplicemente detto paga qualcosa di meno. Almeno questo è il mio punto di vista. Sì, la sua logica del condono. Esatto, sì. Che, la beh, insomma, alla faccia del condono, perché voglio dire, se ti tiri dentro i capitali dall'estero paghi il 2%, se invece vuoi spingerti la musica in digitale devi pagare almeno la metà, la faccia del condono. Io ribadirei una cosa però, che il fatto di condividere dei file tra computer, cioè tra utente a utente, è comunque una forma di condivisione culturale e come tale dovrebbe essere mantenuta e... La cultura è male, agevolata. La cultura crea senso critico. Daniele, e comunque sei in Italia. Sì, no, no, no, ma cultura nel mondo. Male. No, no, mi riferisco alla Costituzione italiana, la quale penso... La Costituzione italiana è l'unica cosa che si può scaricare in rete con i tool peer-to-peer senza essere multati. Non ne sono tanto... sicuro. Ok, e dunque, come metodo di condivisione culturale dovrebbe essere agevolato. E invece mi sembra che l'unico punto di vista sia quello che siamo anche obbligati a recepire, che sia quello di un'entità privata esterna, spesse volte addirittura extraterritoriale, la quale ci impone di rispettare la sua tutela, la tutela dei suoi interessi, la quale è completamente marginale di fronte a quello che rappresenta la possibilità di palleggiarsi dei file da utente a utente. L'ho detto un po' male. Ma io sono d'accordo. L'avrei detto male. quindi lo voti? Però il senso è chiaro, insomma. Bella Daniele, bella. No, trovo che l'aspetto culturale a cui fa riferimento Daniele e anche gli accenni che faceva prima la Spagna siano coerenti. E chiudo perché adesso stacchettino, sennò cioè veramente la gente si sta suicidando, si sta a casa. Sta suicidando in massa. Però, è vero che questa legge, tanto quanto il crackdown a cui facevamo riferimento prima, schiaccia completamente l'approccio di una persona normale a una comunicazione. La schiaccia perché la vincola dettando... E poi intimorisce in partenza. Sì, ok, adesso ho bevuto, quindi. Però avete capito, vero? Bravi! Bella. Sì, sì, bella. C'è uno stacco. Sarà meglio. Yeah. Banging and burning on through endless nights forever. someone to turn off the light. A Radio Popolare, sempre Vacia Pai Mouse. Volevamo in 37. Chiusura di questo. Io 39 mi dice il PC. No, dice 37. Lo so, 39 piace di più. Volevamo. Ah sì? Ah, va bene. Daniele è tristissimo, mi dicono perché abbiamo finito gli anacardi. Io non li ho neanche assaggiati, per cui sono più triste di voi. Tanto sei nel periodo salutista, cazzo, gli anacardi. Cioè, smettila. Rispetto a tutto questo ambaradan sul decreto urbani e compagnia, eccetera. C'è una manifestazione lanciata domani a Roma da alcuni gruppi che se ne sono insomma occupati. Da alcuni, diciamo, della sinistra, almeno questo possiamo dire. Almeno questo possiamo dire, della sinistra d'opposizione, quindi l'appuntamento è a Roma alle 2:30, se non ricordo male. Comunque beh, sui sito no-urbani.plugs, scritto plugs.it, ci sono tutti i dettagli, eccetera. Tutti gli appuntamenti. Sì, poi non, vai. E dopo di ciò, direi, affidiamoci. A chi ci affidiamo? Ci affidiamo alle stelle per capire come andrà a finire. Ma sì, non ci resta altro. Sì, un orologio. Benvenuti a questo servizio sperimentale di oroscopistica astrale. Se non credete nell'oroscopo, siete liberi di cambiare stazione. Noi però non rispondiamo di Giove, che ultimamente ha una brutta congiunzione al ginocchio ed è irascibile che non ne avete un'idea. Bene, per quelli rimasti, andiamo a incominciare. Ariete. Attenti a non sfondare le quote di Napster, che poi i postali se la legano al dito. E si sa, il postale te le suona sempre due volte. Marte suggerisce, ma un lamparti con gli amici no? Toro in borsa. Poi è arrivata Parmanet, una good company per salvare il colosso del latte, puntando tutto sul settore network. Due modem e i campanacci delle mucche. Mercurio suggerisce, evitate le web farm. Gemelli, come quelli che ti mettono ai polsi se scrivi Sasser. È quasi come entrare in società, ma senza la S maiuscola, comunque di gente ne conosci. Plutone consiglia, non fate i professori, là dentro la sanno più lunga. Cancro, e come se non bastasse sei pure nerd? Venere consiglia cambia segno o almeno pettinatura. Leone di notte, di giorno lo sapete. Smettetela di programmare fino alle 3, che tanto domani la Microsoft si compra SourceForge. La luna consiglia cautela, qualsiasi cosa direte potrà essere brevettata contro di voi. Vergine, come i CD. Basta masterizzare i giochi della Play che sono demodé. Per chi fa sul serio, c'è il nuovo video promozionale del decreto Urbani. Vedrete che lo battono pure da Sotheby's by per delle cifre che manco i Picasso. Bilancia, pende, come sempre dal lato sbagliato. Venere consiglia, riflettete su quella proposta di vostro cugino. Negli agriturismo ci si fa un mazzo tanto, ma in fondo non è così male. Scorpione, un vecchio figlio di buona donna sporgerà denuncia perché sul vostro sito lo avete sputtanato raccontando i suoi loschi trascorsi violenti. Giove consiglia, se lui invoca il diritto all'oblio, trovatevi una tranquilla isola nella rete. Sagittario, farete un viaggio verso la seconda metà di maggio. Vi prenderanno le impronte digitali all'aeroporto d'arrivo. Chi ha detto che non ci sono due impronte uguali? Le vostre sono simili a quelle di Agel Kaif. Che brutta vacanza. Capricorno, la luna in Urano vi metterà di fronte a nuove sfide. come riuscire a leggere quel CD audio che vi ha portato vostro cugino da Londra. Rivaluterete un vecchio elettrodomestico anni 80. Acquario. Aprirete un account di posta su Gmail, il nuovo servizio di Google. Urano vi fa notare. Avete presente le foto di nonna in quel sito delle Filippine che lei credeva di aver fatto perdere le tracce? Ci siamo capiti. E per finire, pesci. Quelli piccoli, per favore, muoversi in banchi. Quelli grossi, tranquilli, che al conto in banca ci ha già pensato la Carlucci. Omaggi ai provider. Anche la colonna sonora non era male, tutto sommato. Ken Palmer. Eh? Dicevo Emerson e Ken Palmer. So. Conosco. Va bene, quindi cambiamo argomento. Cambiamo argomento, come abbiamo detto. Già urbani, ci ho mandato in depre abbastanza. Sì, adesso insomma parliamo un po' di cose che vanno bene ogni tanto. Sì. Che ogni tanto capita che le cose funzionino. Bravo. Capita poco, a dir la verità. Però ogni tanto capita anche, come abbiamo detto in apertura. L'associazione Isole nella Rete è riuscita a difendersi da questo attacco di Caradona, il quale ricordiamo brevemente, comunque poi ci sarà anche nel servizio che sentirete, aveva intentato causa appunto all'associazione per... appellandosi a uno strano diritto all'oblio, che scusate, insomma non si sa bene da che cosa dovrebbe essere. Chi è Caradona? Un picchiatore, chiamiamo le cose quando era piccolo, quando era giovane, pestava allora il mazziere. Il mazziere nero, ovviamente, perché un centro sociale romano ha raccolto del materiale appunto su questo personaggio, l'ha pubblicato all'interno appunto di uno spazio ospitato su Isole della Rete, e Caradona l'ha visto e ha detto no, e non vale, perché io voglio diritto all'oblio, voglio anche dei bei soldi perché è così. E in fatto prima casa per 250 milioni quel... ebbene sì, ma stavolta gli è andata storta. Io direi che aveva finito i soldi, sì, sentiamo il racconto che ne fa Ferri Byte di Isole della Rete. Nella Rete. Parte nel 2000 la vicenda Caradona, e con una lettera del legale di Caradona, ex deputato del Movimento Sociale Italiano, che chiede la rimozione di un sito antifascista realizzato dal Centro Sociale La Strada, in cui c'è un dossier sui fatti della destra italiana, in cui lo stesso Caradona viene indicato e denominato come mazziere, picchiatore, come lo è stato di fatto, e ricostruendo una serie di episodi in cui si è reso protagonista. Caradona, che non è nuovo a effettuare delle richieste, citazioni per danni a soggetti della sinistra, compreso alcuni giornalisti famosi, e il più delle volte fra l'altro riesce a spuntarle in sede legale, questa volta chiama in causa Isole nella Rete come associazione che ospita sul suo server www.cn.org appunto questi dossier realizzati al centro sociale La Strada. L'associazione Isole nella Rete, bisogna dire molto professionalmente assistita dall'avvocato Pagani, nel corso di questi anni e si appella chiaramente alla libertà di espressione, al fatto che ospita delle pagine di cui non può essere a conoscenza nemmeno nei particolari dei contenuti, e comunque rivendica nello specifico anche il diritto di cronaca, ovvero il fatto di aver denunciato questa figura storica della destra italiana realmente per quello che è stato un capo picchiatore, insomma, dei fascisti dagli anni 60 fino a quando gli ha detto il fisico. E la causa legale va avanti negli anni, e fortunatamente nel 2004, nel gennaio, arriva la sentenza del Tribunale di Roma molto importante, perché riconosce all'associazione ISE nella rete e Centro Sociale della Strada il diritto di cronaca, la libertà di aver esercitato il diritto di cronaca, perché nel frattempo ampia documentazione era stata prodotta dai soggetti appunto direttamente interessati alla causa, soprattutto dall'associazione ISE nella rete, e che dimostrava con articoli di giornale, comunicati ANSA, fotografie, articoli di quotidiani, libri scritti o da soggetti di sinistra, ma anche libri addirittura scritti dagli stessi fascisti che rivendicavano le azioni violente perpetrate negli anni, che appunto quello che era stato scritto era semplicemente una ricostruzione storica. Quindi il Tribunale di Roma dichiara che era stato esercitato semplicemente il diritto di cronaca dal centro sociale ospitato dalle pagine di Isella Rete www.cn.org, e quindi assolve l'associazione di Isella Rete, anzi impone di ripagare le spese legali per 3.000 euro a Giulio Caradonna, ex deputato dell'MSI. Questa sentenza è importante in questo periodo di oscurantismo digitale, perché oltre alle pensate di Giuliani, che ne tira fuori una al giorno, dalla criminalizzazione del peer-to-peer all'ipotesi di far pagare o comunque multare chi non deposita i contenuti dei siti internet presso, non mi ricordo bene se la Libreria Nazionale o la Pretura, questo è l'ultimo delirio giuridico annunciato, ipotizzato, di cui potete trovare ampie tracce in rete, e per cui è importante, perché una volta tanto si afferma la libertà di espressione in rete, e nello specifico però bisogna dire soprattutto il diritto di cronaca, perché il giudice comunque non si è sbilanciato più di tanto nel considerare il mezzo tecnologico, ma semplicemente ha voluto riaffermare che sono state dette delle cose che oggettivamente erano vere e riscontrabili nei testi di cronaca e di storia. C'è alcuni fatti specifici su cui probabilmente era interessante porre un po' di attenzione, e che invece non hanno avuto molto seguito. Nello specifico Caradonna anche denunciava il Centro Sociale La Strada perché riportava dei fatti, secondo Caradonna, mai successi, e in particolare rimproverava il fatto di citare una sede che secondo lui non era mai esistita, e questo una sede di via Torino, se ricordo bene, e dell'MSI, e su questo magari potrebbe essere stato interessante indagare ulteriormente, perché magari c'era l'intenzione di mettere a tacere chissà quale altra pezzo di verità nascosta o cose non esplicitate appunto nel passato rispetto alle trame nere. E detto questo, ne approfittiamo come ISE nella rete non solo per ringraziare l'Avvocato Pagani che ci ha assistito in quest'anno, non solo per ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato producendo la documentazione che è stata importante, se non indispensabile, per vincere il primo grado di questa causa, sperando che non ce ne siano altri di gradi, ma anche per lanciare un appello a sottoscrivere l'Associazione ISE nella Rete, che è un collettivo informale alla fine di persone, che regge un po' una baracca che dà servizio di visibilità e comunicazione attraverso i siti web, ma anche e soprattutto attraverso liste di discussione, insomma, Cyber Rights, Movimento, CS List, l'Animalist, l'Internazionale, via dicendo, che copre un ampio spettro di tematiche, dà appunto servizio ad ampi settori del movimento italiano, senza stare a vedere sotto quale bandierina si sono posti, quindi volendo una sorta di servizio pubblico per le realtà insomma auto-organizzate. Dai le coordinate per sottoscrivere. Sì, dunque le coordinate per sottoscrivere, le coordinate per sottoscrivere dall'home page di Disegno della Rete, che è a visitare www.ecn.org, ecn.org, trovate tutte le porte ai principali servizi della rete, quindi le presenze web, quindi le mail list, quindi la possibilità di fare chat, la possibilità di utilizzare le nostre email e via dicendo. Trovate anche il link diretto e i riferimenti per poter sottoscrivere l'associazione attraverso il bonifico bancario, attraverso conto corrente postale e via dicendo. Non abbiamo finanziamenti da nessuno, sia privato che pubblico, quindi confidiamo nella solidarietà, nella partecipazione, diciamo, perché la solidarietà, nella partecipazione anche economica di chi si riconosce nel progetto stesso. We'll be right back. shadow of the razor. Although my room is flesh and blood. Radio Popolare, Vacia Pai Mouse. E adesso cosa... Questa musica mi sveglia a quest'ora, ho bisogno di qualcosa di più forte. Cioè, sei proprio rovinato. Janis Joplin, non ti... datemi qualcosa. Non sarebbe male. Ma lo farebbe addormentare, scusate. Janis Joplin e le Zeppelin non mancano mai, perché solo a che te, se io non che porto ti piace CD... questa musica... Appunto. Infatti facciamo concorrenza a Martello. Siamo all'agenda. Io a questo punto direi che sono, essendo che sono le tre, facciamo un anticipino. L'agenda di Nonna Papera. Sì, facciamo un anticipino sulla nostra di agenda. Sì. Cominciamo a dire che torneremo in onda. Purtroppo per voi. Torneremo ancora in Istituto Popolare. Torneremo in onda il 9 luglio. Venerdì 9 luglio. Presto? Dovrei studiare un sacco. Dovrei studiare un sacco. Non faccio in tempo. Vabbè, non è un problema. Chiama. No, poi dobbiamo, poi dobbiamo decidere se abbiamo dato dei debiti, se ha qualcosa da riparare. Insomma, sì, ma secondo me sì, cazzo, sono un sacco di debiti. Con me è un sacco. Ah, sì? Salda, bastardo. Esci i soldi, infame. Tataglio. Dai, usciamo gli appuntamenti. Va bene, allora, dunque, l'agenda degli appuntamenti, essendo noi, cioè, siccome la inizio io, sì, decido che come Harry Potter faccio avanti e indietro nel tempo. Va bene. Così mi mantengo giovane. Perché Harry Potter faccia questa cosa? No, non lo so, però vabbè. Però veniva bene. Tu alle tre non devi badare a quello che dico io, cioè, alle tre oramai sono al di là del bene e del male. Quindi, del non male solo, soprattutto. Non solo un'agenda che, come dice la parola stessa in latino, è agire nel futuro. Smettila! un verbo incoativo. Sì, incoativo. Incoativo. Sì, ci sono anche dalle... Che ma... tradotto in italiano becero sarebbe incominciativo. Sì, cioè incominci qualcosa. Sì, qualcosa che in... bene. Angolino della cultura, va bene, siamo contenti. Ma anche quello che è accaduto. Nello specifico io mi preme ricordare due appuntamenti passati, un appuntamento in corso e qualcosa nel futuro... sì, lo so, c'è da meglio. Quelli passati. Allora, quelli passati, grazie Daniele, sei un angelo. Quelli passati, direi che il primo è l'EC Meeting, che è anche quello più lontano in ordine di tempo, è stato a Genova, al laboratorio Buridda, che è un'ex università, un'ex facoltà occupata appunto a Genova, il 2, 3, 4, se non sbaglio, non voglio dire stupidaggini, comunque, di aprile. Sì. Cioè la settimana prima di Pasqua, è stato un evento arrivato oramai alla sua settima edizione, ben partecipato, e ha creato in questi 7 anni una comunità stabile e forte che ha così tanta voglia di vedersi che sta provando a fare un, e qua io mi diverto a fare agenda a modo mio, un Transact Meeting, cioè un hack meeting europeo che invece avrà luogo poi a Pola, in Zagabria, verso fine giugno. In Croazia facciamo? Sì, buonanotte. Sì, c'è un santo per la geografia che ti assiste. San Precario, no? Okay. Secondo me va sempre bene. San Precario lavora per me. E, dicevo, quindi questo Transact Meeting che è un è la formula dell'Hack Meeting, quindi 3 giorni di smanettamento ma anche di riflessioni politiche sui temi del digitale, però allargati alle comunità europee. E, c'è questo splendido castello in riva al mare a Pola che ci viene messo a disposizione dalla comunità locale e maggiori informazioni la trovate su la mailing list THK che è recuperabile dal sito. Mi rendo conto, non c'è molta documentazione, credo che il sito sia transactmeeting.org o thk.org. Invece, per quanto riguarda il secondo appuntamento del passato, è la Medei, a cui si ispirava in parte il cinemino di stasera, l'introduzione di stasera, che è il 1 maggio, la festa dei lavoratori precari, che si tiene il pomeriggio, ed è praticamente una festa, una parade, quindi una sfilata di carri con musica e poi sabba finale in piazza Castello che si è tenuta. Quest'anno è arrivata credo la 4ª edizione ed è stata discretamente partecipata, i numeri parlano tra i 60 e gli 80 mila partecipanti, 44 carri e quasi 8-10 ore di festeggiamenti ma anche di rivendicazioni riguardanti i diritti non solo del lavoro ma proprio il diritto a sfuggire alla precarietà come stile di vita, che è quello che diciamo, era il messaggio più forte. E invece per quanto riguarda l'appuntamento, sono stato chiastico con questi due futuri, due no, passati e uno centrale, molto chiaro. Ce la posso fare? È molto chiaro. E, sì, sempre l'angolino un po' della cultura. Q sono... come cultura proprio. E, dicevo, l'appuntamento che è in corso è il meeting di Indie Media, che si sta tenendo in Pergola, via della Pergola, vicino a Stazione Garibaldi. 5, via della Pergola 5, sì, ho delle difficoltà proprio a connettere in questo momento, e che si terrà domani e dopodomani, domani con le assemblee e dopodomani con i workshop. Sintetizzo un po', magari qualcuno ne vuol dire qualcosa in più? No, il programma è di fare una assemblea plenaria quasi tutta la giornata di domani, i workshop dovrebbero essere domani tardo pomeriggio dalle 5 in poi e la domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno. Sempre in via della Pergola 5, e io penso di aver finito. Passo la palla a Shodan. Ah sì, avevo 3 cose rapidissime da dire. Beh, volevo ricordare che ogni giovedì sera, a partire dalle 9:30, teoricamente, in verità 10, in Piazza Mercanti a Milano c'è parte la Critical Mass, quindi tutti in bicicletta per la città di Milano. E pedalare. Tutti i giovedì e pedalare, facendo percorsi anche abbastanza divertenti per la città. Appuntamento futuro, il 29 maggio a Roma c'è la Critical Mass nazionale, quindi una bella biciclettata di tutti i vari folli ciclisti italiani nella capitale. E per chi fosse interessato alla cosa, Il 21 corrente mese, quindi venerdì prossimo, di mattina, partiremo, per ora siamo in pochi, spero che si aggiunga gente, partiremo in bicicletta da Piazza Mercanti per andare a Roma e ci faremo 7 giorni di pedalata facendo un po' di tappe. La marcia su Roma, La marcia su Roma. Ce ne sono di precedenti. La pedalata su Roma in questo caso, quindi andremo con, come era, Libro Moschetto e compagnia. Invece no, cioè bici, invece no, bici eccetera. Stellini manubri. Partiremo il 21 bici e facendo teoricamente 7 tappe andremo a Roma e arriveremo. Secondo me vi fermate in Toscana a bere, bastardi. No, l'idea è che passiamo da Cremona, Parma, Toscana, eccetera. E quindi dopo la pedalata ci saranno delle mangiate veramente per paura. Nervose. Infatti penso che ingrasseremo nonostante i 90 km giornalieri che ci spareremo. Minchia. E quindi niente, chi volesse partecipare, eccetera, o si presenta al 21 direttamente in piazza, oppure meglio ancora, ci fa sapere la... magari passa questi giovedì che mancano, che si... Giovedì prossimo, alla fine, o meglio ancora, scrivere alla mailing list, quindi alla lista di mail della Critical Mass di Milano, che è cm-milano@autistici.org, mi pare. E ci faccia sapere che voglia essere, che vuole quindi essere cm-milano @autistici.org, che è la mailing list della Critical Mass di Milano, e ci comunichi la propria presenza. Sì, ma è più bello se si fa vedere, dai. Sì, beh, ci sono un paio di cose organizzative, quindi posti per dormire, eccetera, che dobbiamo sapere, quindi se lo sappiamo prima è meglio, però... Meglio entrambe le cose, dici tu. Meglio entrambe le cose, meglio saperlo prima, però... Male, almeno vi organizzate, via. Sì, sì, sì, comunque, beh, alla fine, se c'è qualcuno che viene, si aggrega... Abbiamo fatto le 3.10. Sono le 3.10, infatti io certa. Ricordo che sono le 3.10. Ora devo parlare, bacio a Playmouse. Vi salutiamo, buonanotte. Ciao. Ci vediamo, ci sentiamo magari prima, non lo so. Sì, ma ci sentiamo, sentiamoci il 9 luglio. Sì, sì, ok. Saluti. Ciao. Ciao. Ciao. Tre bronze, per un po' di Windows. Ma faccia fai mouse. Faccia fai mouse. Incontri e avvistamenti dalla strada al cyberspazio. Un programma a cura dell'OA di Milano.